Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Serve anche a me un fanzaghino, capito? Ormai la mia età non è che sia più giovane, magari avere un fanzaghino o una fanzaghina, capito? Con l'utero in affitto, perché no? Ma sono fuori di testa, sono fuori di testa. Per fortuna che almeno Grillo ragiona. Io rifiuto categoricamente di associare questo tema a Vendola, perché secondo me è un errore grave. Io di Vendola ho un giudizio politico pessimo, è uno che va in pensione a 57 anni, lui di sinistra, con vitalizio osceno e da ieri è rinviato a giudizio per i disastri dell'Ilva, e lo metto da parte. Chiesa, tele, cosa, serial killer, serial politici, morti in diretta, i migliori casi clinici, cazzi vostri in onda, ok? Abbiamo deciso che continueremo a reggere gli argini di questa grande deriva antropologica. Ormai sfonderanno il muro della separazione tra l'uomo e l'animale, che ci danno i croccantini anche a noi, per risparmiare, per diminuire il debito dello Stato, ci danno qualche croccantino al giorno. Eh sì, perché che differenza c'è, uomo, in fondo, l'uomo e il gatto? A che ora è la fine del mondo? A che differenza c'è tra l'uomo e il gatto? Si chiede padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, che non ha citato il diavolo questa volta, ha tenuto il diavolo un po' fuori dai discorsi. Allora, si parla sempre di utero in affitto, non ne usciamo, ecco le dichiarazioni audio almeno, anche perché ora dagli Stati Uniti arrivano delle storie che escono sui giornali. Libero racconta per esempio oggi di una Star TV, molto famosa in America, io non la conosco, che con il marito ricorre alla maternità surrogata, chiamatela così, utero in affitto, quello che volete, e poi però cambia idea, perché si separa con il marito, no? E allora, quando nascono i figli, va in tribunale il figlio e vuole disconoscere questo figlio nato in utero in affitto. Oppure un'altra storia sul giorno, sempre dagli Stati Uniti, di un dipendente delle poste che ricorre all'utero in affitto. Poi però cosa succede? Che nella fecondazione nascono tre bambini e lui dice: no, io non ho soldi, ho soldi solo per due. E quindi, quando scopre che sono tre, chiede alla donna che porta avanti le gravidanze di abortire per uno, di abortirne uno. Ma la donna dice: no, io sono contro l'aborto e il terzo lo tengo io, ma il contratto prevede che l'unico padre sia quello del contratto che dovrà tenerli tutti e tre, cioè il postino. Cioè un casino, non si capisce niente, ma è venuto il mal di testa. Non so, è questo il mondo verso cui andiamo? Non lo so. Calculo che il girone è giusto, ok? Anche ora è la fine del mondo. Non lo so, forse ci sono problemi più importanti, forse no, non lo so. Certo c'è una notizia che oggi mi mette di un'allegria, cioè c'è un ritorno al Parlamento, una roba pazzesca, pazzesca. Alle 6.33 minuti insieme a Lorenzo Nespoli in redazione, insieme a Peter Bescapè in regia, insieme al nostro Fedez preferito, e cioè il nostro Federico Novella. Buongiorno. Che ieri ha fatto le ore piccole, sicuro. Mamma mia, l'ho vista anch'io fino alla fine. Ragazzi, c'è. Stavolta sì. Quindi sono in condizioni pessime, ma ne valeva la pena. Interisti, devo dire una cosa, interisti, ma non è stato peggio così. Perdere, infatti, dopo un'impresa. Perché buttar dentro la palla 90esimo per poi farmi fare le ore piccole? Ma perché? Ho bisogno di un cervello in affitto io stamattina, altro che utero. Ma perché fare tutto questo e poi arrivare a perdere con gol decisivo di Bonucci su rigore che vi urla? Guardate la mia faccia! È una mancanza di rispetto per se stessi e per gli altri. No. Cari interisti, era meglio perdere 4-0 anche ieri, invece che vincere 3-0, andare ai supplementari, ai rigori, e poi perdere con rigore decisivo di Bonucci. Veramente era nettamente meglio un'altra granulata di gol sul groppone. Assolutamente d'accordo. Vabbè, Milan-Juve, finale di Coppa Italia. Partiamo da un 3-4-0 per la Juve sicuro. Noi cercheremo di fare a tavolino. Partiamo da un 3-4-0 a tavolino. Cercheremo di fare di tutto. Ma Federico, c'è un momento importante, dopo mesi la davano scomparsa come profuga in qualche paese arabo. D'altronde il Papa ha detto che c'è l'invasione araba in Europa, lei voleva fare l'invasione europea nei paesi arabi, la davano per candidata sindaco a Cantù. E il ritorno, dopo mesi, della nostra Aurora. Sarà l'Aurora. Mamma mia, Aurora Lussana, come stai? Cosa stai ascoltando? Buongiorno, caro Milan. Ma cosa stai ascoltando intanto? Aspetta che tiro giù la musica. Che cos'era questa musica? Il Viesire, il Requiem di Giuseppe Verdi. Il Requiem di Giuseppe Verdi. Specialità. Quale migliore sound per partire con cioè tu le canti l'Aurora? No, c'è più vitalità. Ecco. In Verdi nel suo Requiem, che vitalità in questi giorni. Sentilo qua. Perché? Io stavo sentendo Mac prima. Perché giorni decadenti? Vabbè, ma allora apriamo il Parlamento, dai, che è tornata anche Aurora Lussana. Allora, finalmente vado a prendere un inseguita, caffè, Aurorina, eccoci qua, insieme a quel bel manzo di Federico. Una volta l'hai definito così. Oddio, è un bel manzo Federico Novella, bello e bravo, non come te Milan, che sei solo bravo. E ovviamente un caro saluto ai tanti amici che stamattina incidentalmente sono sintonizzati su Radio 24 anziché sulle frequenze di Radio Padania Libera. Di Radio Padania Libera. Sì. Va bene. Era in Siria. Non lo so. Adesso c'è un ascoltatore mi dice che sentirti cantare a me mi ha fatto passare la voglia di vivere. Così, di vivere. Addirittura. Aurora, che fine hai fatto? No, sono rimasta in Brianza. Non sono mica andata nella giungla di Calais, non sono andata alle frontiere della nostra Europa, che tanto a breve sarà africanizzato. Arabizzata, proprio africanizzata. No, vabbè, diventerà un'Europa afroasiatica, lo sappiamo già, e sono rimasta a presidiare, come tu sai, la Brianza. È così proprio ce lo dice Federico, con uno scoramento, proprio come se la cosa fosse già come se avesse fatto una lunghissima ronda in questi proprio per evitare la colonizzazione, no? Ma si parla proprio di sostituzione etnica. Andiamo verso, non leggete Camus voi? No, non leggiamo Camus, no, io Topolino con mia figlia. Se. Povera creatura. Per andare in Africa a fare le esplorazioni, i viaggi, se l'Africa arriverà in Brianza. Leggete Renaud Camus, che parla della grande sostituzione etnica che avverrà in Europa. Però la tua bimba, leggi quelle robe qui, tu che sei un autoctono. Ho timore di scioccarla un po' a 10 anni. Se amassi i tuoi figli, li difenderesti da questa invasione, combatteresti con me. Ma vado a prendere l'elmo, l'alabarda adesso, adesso, adesso. Sì, se fossi un padre che ama la sua progenie come Vendola, anche tu combatteresti per loro. Va bene, va bene. Vabbè, intanto ci scrive un ascoltatore: buongiorno Aurora, io sto cucinando involtini di melanzana con fettuccine in salsa di taleggio. No, sto male. Scusate, alle 6:30, ma come state messi? Però no, ci scrive il nostro ascoltatore dall'Australia, ci segue dall'Australia. Allora sì, sono fettuccine all'australiana. Allora vabbè, ma adesso io non vorrei entrare, ma Aurora devi, cioè, tutta, devi dirci qualcosa, devi... No, sto male con le melanzane, c'ho le nausee con le melanzane. Come c'è le nausee? C'ho le nausee, c'ho le nausee con le melanzane, non riesco più a cucinare. Come mai? Siccome ero povera, non c'avevo i soldi per andare in California a affittare l'utero, ho dovuto ricorrere a un rituale umano ancestrale primordiale che appartiene ai nativi. Attenzione, uno scoop in arrivo. Attenzione, sono le 6:39 minuti. Che sta succedendo in quel di Cantù? È arrivata la provvidenza. Cioè, ci stai dicendo che la progenie padana continua grazie a Aurora Lussana? Sì, sì, non ho affittato niente perché non c'ho i soldi, ho dovuto ricorrere, insomma, questo ancestrale rito carnale. Ma congratulazioni! Avremo un leghista in più, allora. Un leghista in più, l'applauso, ma ci vuole un po' più dell'applauso, scusa, se non hai delle campane. Giuseppe Verdi a manetta. Senti qua, Cantugia, ci sta annunciando Aurora Lussana di essere incinta. Eccola, sì. Signor, eccola che... mi è stata la provvidenza, quindi speriamo che mi assista fino alla fine, Milan. Ma no, certo. Ma è straordinaria questa cosa. E se mi chiamavi la mattina e... tu non rispondevi perché? Perché grandi, non... grandi felicitazioni. Grandi felicitazioni. Ma come è potuto succedere? Com'è... No. nel senso, non ti consenti, ma... Ma ripeto, felice, un rituale ancestrale che insomma oggi verrà soppiantato dal fordismo della procreazione probabilmente. No, ma no, non è così. Sì, si va verso il fordismo della procreazione. Sì. Dice, è più comodo la prossima. Ma perché dici la prossima volta con un po' più di soldi e chiedi un utero in affitto anche tu? No, dai. No, è un'impudicizia soverchia, come direbbe qualcuno, quella dell'utero in affitto. Insomma, un bene indisponibile, incedibile. Eccolo. Forse puoi donarlo per il procedimento tradizionale. Sì, diciamo. Puoi donarlo, però poi lo chiedi indietro, lo puoi prestare. Si dona, la vita è un dono. No, vabbè. Ma no, ma è una notizia, cioè, bellissima. Adesso mi verrebbe quasi da fare un contest tra i nostri ascoltatori su come chiamiamo su come è avvenuto il fattaccio. No, questo bimba. È una bimba. Ah, è fantastico. Padania libera. Abbiamo già il nome. Tutto attaccato. Padania libera, certo. Libera Padania in libero stato, anche si potrebbe chiamare così. Sì, Eridania, anche insomma la nostra terra. Insomma, Eridania. Piccoli lombardi crescono. No, ma è straordinario. No, veramente tanti auguri. Che poi Rastella sarà un po' un sangue misto, perché tu sai che il mio è stato un matrimonio misto. In che senso? Ma sei sposata? Nel senso che io sono bergamasca e mio marito è comasco. Quindi... Questo è il massimo, certo. È il massimo del mescolamento che un padano si può permettere. Dove finiremo di questi tempi? Esatto. Adesso al di là di tutto, vuoi fare la considerazione su Vendola? L'hai già fatta, dai, falla anche tu. Non ti piace, insomma, questa storia di Nicky? No, lunga vita al suo bimbo, a Tobia, che sarà una meraviglia di bambino. Sì. Ciò che è stridente, insomma, questo atto di imperio capitalistico, no? Puoi sottrarre l'unico bene posseduto da una proletaria, cioè la sua prole, mi sembra, ripeto, volere... imporre un'evoluzione progressista che ci porta non allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma insomma direttamente alla compravendita. Quindi, insomma, eccala. Ripeto, un turismo riproduttivo che introduce il fordismo della procreazione. Ma su questo, che lo so che anche Federico, anche tu eri stato molto, molto critico. Quando sulla pratica, no? Sulla maternità surrogata, è una cosa che mi suscita molti dubbi. Ecco, questo devo dire. Ma no, anche a me. Poi bisogna distinguere il caso concreto, perché comunque. Questo bambino merita rispetto e merita una vita serena, dal fenomeno, dal fenomeno. Mm-hmm. Poi io non lo so se poi c'è chi dice vabbè dai, ci siamo abituati al divorzio, ci abitueremo anche a questo. Mm-hmm. Io dico speriamo di no, perché non è che tutto ciò che ci regala la tecnica è buono. La tecnica ci ha regalato il treno e l'autobus, ma anche la bomba atomica, quindi bisogna fare molta attenzione. Sì, ecco. Cioè non, no, ma quello che si dice spesso, non quello che tutto che tecnologicamente, grazie alla tecnologia, è consentito, forse dovrebbe essere consentito dal punto di vista umano. Ci sono due grandi teorie. C'è chi dice che invece sì, la tecnologia deve poter andare avanti e quindi va bene, sia benvenuta, e chi dice non perché è consentito. Va gestita, la tecnologia va gestita. Mi fa specie il fatto che Vendola, per dire, da governatore della Puglia ha fatto una battaglia incredibile per la famosa cosiddetta pillola del giorno dopo, contro, lui gridava contro i tentativi di utilizzare e mercificare il corpo della donna. Insomma, se non è mercificare il corpo della donna pagandola per affittare il suo utero, dice, allora, cos'altro è mercificazione della donna? Vabbè, Aurora, è così, vedi che è meglio sentire il Requiem di Verdi, che ecco, c'è più vitalità, e guarda, è proprio una contemporaneità la nostra, dove se le ruspe le usa Salvini è disumano, se le usa quello là, l'Olanda contro la giungla di Calais, e invece è un atto di civiltà. Sì. Se le donne le pagano di destra, cos'è che dicevano, che è uno sfruttatore, è un mercificatore. Se la donna la paga uno di sinistra, è amore. Senti qua. È meglio non pagarle mai. Sì, ecco. Esatto. Eccola. Sì. Senti. Comunque, Mila, scusa, sì, la donna, posso dire che siccome ci hanno sempre fatto studiare le teorie di Freud, li avrei letti i saggi sulla sessualità di Freud, tutti da prima ecco. Lì si parla dell'invidia penis, possiamo dirlo che adesso nella nostra contemporaneità c'è l'invidia uteris, almeno quello sì, l'invidia uteris, non male, una rivincita un neofreudianesimo, che dicevamo l'invidia penis, certo, l'invidia uteris, finalmente. Senti qua, si sprecano gli auguri, non te li dico, tutte le nostre congratulazioni dei nostri ascoltatori, anche auguri da Modena, grande donna bergamasca, un mito per noi modenesi, pensa come sono messi a Modena, Aurora Lussana, un mito per noi modenesi, ma perché caro ascoltatore? Ma la battezzerai con l'acqua del Po, come da tradizione celtica. Giusto. E lo deciderà la parrocchia di Cantù se usare l'acqua consacrata del Po, a Cantù secondo me arriva direttamente nella sezione della Lega dal rubinetto, è anche più facile. C'è chi dice di chiamarlo Tobias, ma abbiamo detto che è una femminuccia, quindi insomma, poi c'era questo Atalanta, mi dicono chiamalo Atalanta, la dea, così poi allo stadio un abbonamento gratis. Vabbè, dai, parliamo invece tra un attimo, dopo il traffico, di Renzi che prepara, dice il Corriere della Sera, lo dice Maria Teresa Meli, che scrive un po' il renziario del giorno, prepara un colpo a sorpresa sul fisco, un colpo a sorpresa, quale sarà tra poco? Quando mando il traffico godo come un maiale. Dai Alessandro Milan, dai, che se vincete la Coppa Italia fate l'Europa League. Digli a Renzi che con la storia che sono abbassate le tasse, bla bla bla bla bla, vaglielo a dire a quella gente che ha chiuso la propria azienda, vaglielo a dire a loro che sono abbassate le tasse, a questo fanfarone. Dimmi perché quando ascolto solo te. Ciao Alessandro, Simone, Basso Cittino, evviva i gufi! Yeah! Caro signor Renzi, tu hai metà degli anni di Berlusconi, però c'hai il doppio maniere di rompere i coglioni. Vabbè, il nostro napoletano gli è presa la rima baciata, così è partito di sgommata sulla rima baciata. Che dobbiamo fare? Allora, siamo con Federico Novella, lo ricordo poi alle 9 con Mattino 5, di che parlerai, caro Federico? Immigrazione. Immigrazione! Bravo, bravo. Immigrazione. Finalmente, meno male che abbiamo gente che tiene alto il tasso di natalità dalle parti di Cantù. E gli faremo un mazzo così. Che fa il possibile, Milan, che dobbiamo fare. Mai sentito che rispetto a noi due sei ancora un po' indietro. Sì, esatto. No, Federico è a 3, io sono a 2. Tu... No, il problema è che soeggia, come si dice a Bergamo. Sono vecchia, quindi... Sei vecchia. Ma e soeggia, ragazzi, sono vecchia. Sono una primipara molto attempata. È vero, una primipara. Sì, senti i nostri amici su WhatsApp al 349-238-6666. Auguri, Aurora! Lussana, t'hai alla suda di stupidat. Ma che in Brianza ti sei una profuga anche te, te se riguarda dall'est anche te. Oh, la Brianza, la guardia, la fanno i Brianzù. Minga che arriva da Bergen. Congratulazione per Aurora, magnifico. Oh, bravo. Questa è la nostra grande ascoltatrice Françoise da Monte Carlo. Oh, Monte Carlo ci ascolta tutti i giorni, ci manda messaggi. Che bello, no, perché ultimamente quando una donna dice di essere gravida viene insultata, quindi insomma non so piacere. Cioè, perché a chi pensi? No, ma come vi comportate a Cantù nei confronti delle donne? Non dal marito, insomma. Ah, ce l'hai forse sulla questione della Meloni? Sì, ricordo che insomma fu insultata dall'università mondo, ma va bene. Vabbè. Allora parliamo un attimo di Renzi, che sta pensando il gran colpo, Federico. Maria Teresa Meni non dice quale sia, però dice il colpo dell'ultimo minuto. Io ho detto, ma cosa vuoi? L'ultimo minuto di che? E poi ho detto, ma certo, ci sono le elezioni, che stupido. Ah, ma c'è chi dice che adesso questo colpo se ne parla da tanto tempo, sì, e non si sa bene dove andrà a parare, però c'è chi dice che anche questo colpo sarà legato al numero della cabala di Renzi, il numero 80, quindi c'è chi dice che stanno piovendo da qualche parte altri 80 euro. Sappiamo bene come. Sì, ma ho capito, ma dire il colpo dell'ultimo minuto alle elezioni, cioè si certifica nero su bianco che si fanno le promesse e che ti do 80 euro per le elezioni, che ti do 50 euro. Questo però lo fanno. Ma ho capito, ma poi quando uno lo fa notare e dice, ma no, ma come ci si permette di pensare che è legato alle elezioni? Ma come? Come leggi i giornali, sta pensando al colpo dell'ultimo minuto prima delle amministrative. E allora? Ma guarda, c'è sempre una scusa per tutto. Magari lo annuncerà il giorno prima da Bruno Vespa, però entrerà in vigore due giorni dopo le elezioni. Allora questa sarà la scusa per dire, ma io non l'ho fatto mica per motivi elettorali. No, l'ho fatto per principi più alti, no, capisci? No. Era l'ultimo minuto perché poi dovevo cenare, quindi lo annuncio un minuto prima di cenare. Non so, Aurorina, Come vedi tu questa Italia? Tu che adesso metterai al mondo una bambina e le affiderai un paese che vedi come? Ah, vabbè, ma io non posso ipotecare il futuro dei figli, ma la vita è un dono e combatterà lei anche per me, per te, per noi. Sì, però nasce col debito pubblico sul groppone anche tua figlia, adesso non è che puoi scampare. Ma c'è il trucco sui conti, ma adesso pare che il governo ha rivisto a ribasso 2 miliardi di crescita sul 2014, così... con questo trucchetto ha fatto salire il PIL nel 2015. Il nostro premier, il nostro statista fiorentino, è il numero uno. Secondo me anche Obama, quando lo ascolta nelle intercettazioni lì, dice questo qua è veramente bravo. E quello che adesso farai, visto che ci sarà probabilmente una missione diretta dei servizi in Libia, e sarà lui a dare il via. Quindi adesso non solo uno statista italiano, sarà addirittura uno statista con un profilo europeo, libico, africano, statista libico. Ci andiamo a conquistare la Libia, sarebbe una buona idea. Magari non è venuta ancora in mente a nessuno. I nostri servizi segreti. E anche se tu non lo dici, i nostri servizi segreti dicono che sarà l'allarme attentati perché ci sono degli infiltrati, pseudo profughi che tu vuoi accogliere nell'Europa afroasiatica. Forse Federico anche ha aperto casa sua proprio. Conquistare la Libia sarebbe un grandissimo revival. Ho capito, però Aurora, devo dire, la maternità non ti ha reso più buona, anzi. No, vabbè, sarà il progetto, ragazzi. È bella gioia, vieni qui con le nausee che c'ho io, poi vedi come diventi materno anche te. Senti, ma diciamo che, insomma, con tutte le delicatezze del caso, quando potremo, sì, quando le campane suoneranno a Cantù. Allora, se la provvidenza mi assiste, a inizio agosto. Inizio agosto, ma siamo in fede, come facciamo? Non possiamo anticipare un po'? Facciamo una straordinaria, facciamo un'edizione straordinaria, dai. 10 giorni, cioè inizio agosto vuol dire, no, se fai fine luglio ci fai un favore, no? Certo, così, così magari. Sì, facciamo una diretta dall'ospedale, cioè, vabbè. Senti Renzi, dai, non per rovinarvi, i dati sono positivi, dice Renzi, altro che trucchi. I dati che, dopo tante polemiche, i dati sono finalmente positivi sulla ripartenza dell'Italia, i dati del Jobs Act, del PIL, le cose che abbiamo, di cui abbiamo discusso ieri, però l'Italia cresce davvero se finalmente ripartono gli investimenti e le infrastrutture, se riparte un modello diverso di edilizia. Vabbè, non ci credete, lo so, Aurora, tu non ci credi, Federico, tu non ci credi, siete scelti. Ma non lo so, questa promessa di abbassare l'IRPEF è durata, nel 2017 è durata, mi pare di capire, un pomeriggio. Si parte da lì, Renzi, ce lo ricorderemo se abbasserà l'IRPEF. Ricorderemo, va bene, allora noi facciamo così, al 349-238-6666, numero WhatsApp, mandateci in audio il contest su come la nostra Aurora dovrebbe chiamare sua figlia. Ah, vogliamo fare anche un abbraccio a Nicola Molteni, l'onorevole Molteni, perché è lui il papà, no? È lui il papà. No, cioè, credo che parte del merito vada anche a lui. Sì. sì, bravo il Brianzolo, bravo Brianzolo. Che giù, sarà giù in commissione, chissà dov'è. In commissione alle 6:55 del mattino. Per commissione a fare la legittima difesa. Beh, insomma, se lo chiami alle 6 del mattino ti dice che è in commissione, io mi farei una domanda, però ma crediamoci, però, vabbè, va bene così, insomma. Va bene, davvero un grosso abbraccio Aurora, ci hai dato la notizia più bella del mondo. Ma guarda che il patrono di Bergamo, Alessandra è fra i papabili, come nome. Che bello, Alessandra, già mi piace. Bravo. Un grosso abbraccio, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, sono le 7:19 minuti in punto, cari ascoltatori, eccoci qua, pronti a leggere i giornali. 1, 2, 3, ci siamo? Sì, c'è anche Don Livio, ben contento di leggerli con noi. Padre. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È vero. Forza, andiamo! Giovedì 3 marzo, siamo qui con i titoli Sole 24 Ore, bonus casa e mobili, ecco gli sconti del 7.30, coi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate parte l'operazione precompilata 2016. Questo è il titolo di prima pagina. Poi ci sono un po' di notizie dall'estero, per il Corriere della Sera. Libia, l'Italia pronta a muoversi. Mentre Repubblica un reportage dalla Siria, così resiste Damasco, Siria viaggio nella fragile tregua. Non c'è una notizia principale che si impone, ecco che si guarda un po' ovunque. La stampa invece si concentra sull'America, Hillary Trump via il duello per conquistare l'America. Venendo invece alle questioni anche il manifesto e l'Unità hanno sull'America il muro americano, il manifesto c'è la foto di Donald Trump, mentre l'Unità mette Hillary Clinton e Donald Trump, i due possibili sfidanti campioni nel mondo. Questo è il titolo legato però a che cosa? Al report Coldiretti Simbola, boom dell'export per 1400 prodotti made in Italy. E questo sotto la foto però di